ma quegli occhi superbi e severi non danno alle mie pene un guardo solo. Costanza, tu m'insegni, Costanza, tu mi insegni, e vuoi ch'io speri, ma quegli occhi superbi e severi, ma quegli occhi superbi e severi, non danno alle mie non danno le mie, le mie, un guardo solo. Ascendo di speranza, di speranza, i miei pensieri. Pur talvolta sospiro, pur talvolta sospiro, e mi consolo. Pur talvolta sospiro, e mi Costanza, tu mi insegni, e vuoi ch'io speri, ma quegli occhi superbi e severi, ma quegli occhi superbi e severi, non danno alle mie Costanza, tu mi insegni, e vuoi ch'io speri, ma quegli occhi superbi e severi, ma quegli occhi superbi e severi, non vanno alle mie pene, non vanno alle mie pene.